If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Che belle giornate di sole, eh? Oggi era piacevolissimo stare al sole. Fuori in giardino, non fa più tanto freddo, la temperatura si è alzata, è bellissima, sembra quasi primavera. Ma ormai ci siamo, non manca poco, poi arriverà la primavera ufficialmente. Questo weekend le temperature saranno primaverili, poi però con l'inizio della prossima settimana probabilmente arriverà ancora un'ondata di freddo, però non come quello che abbiamo vissuto in questi giorni passati. Buon pomeriggio, ben ritrovati, Roby D'Antoni con voi sino alle 19. Quindi trascorreremo buona parte del pomeriggio, non avete altro da fare che mettervi comodi. Mettervi comodi e soprattutto se volete richiedere la vostra musica, poi vi dico come fare, perché intanto arriva il primo disco di oggi, è un flashback. Flashback. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua, come mi è venuta, e chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. Ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà pure perché. Certo che iniziare così, chi bene inizia è già a metà dell'opera, diceva un vecchio saggio, io ho seguito alla lettera. Vasco Rossi, una canzone per te. Primo disco di oggi è un flashback, un disco che ci porta indietro nel tempo, così parte l'ultima puntata settimanale di On The Road, l'appuntamento che vede protagonista Roby D'Antoni, che vi terrà compagnia quindi sino alle 19. Voi potete interagire con noi, è facilissimo, come fare? Basta richiedere la vostra musica al 335-5637-251, potete anche inviare i vostri messaggi tramite il nostro profilo Facebook, quindi CRM Happy Radio, o ancora tramite il nostro sito internet crmhappyradio.it. Là, oltre a richiedere la vostra musica, avrete anche la possibilità di vederci in diretta, sì, proprio così, vederci, oltre che ascoltarci. Jennifer Lopez, papi, non so se avete visto il video di questa canzone, bella, eh? Beh, d'altronde lei mette anche in risalto il fatto che sia anche una grandissima ballerina, oltre a una brava cantante. 17:26, buona serata, oggi venerdì 24, ormai siamo un piede dentro il weekend, un weekend dopo carnevale, anzi credo ci siano degli appuntamenti ancora, perché ci sono dei posti, dei paesini dove il carnevale continua qualche sabato, oltre il sabato consueto del carnevale, o meglio oltre il weekend del carnevale, quindi poi magari cercherò di scoprirlo dove e vi farò sapere. Credo che ci sarà un bel carnevale anche a Termini, perché è stato posticipato, sarete lunedì e martedì, c'è stato il lutto. Intanto c'è anche Zucchero Sugar, Fornaciari. Noi faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi, far l'amore nelle mani. E nei baci e nei cuori, fiori a far così. Zucchero Sugar, Fornaciari, che pianto che ha fatto la figlia al Sanremo quando ha saputo di essere stata eliminata. Però meritava, dai, non era poi così malaccio la canzone. E intanto una bella formazione, quella dei Red Hot Chili Pepper.

17.35, devo salutare anche Giuseppe che dice: ciao CRM, ti sto ascoltando dal tablet, mi trovo con il collega in pattuglia per Trieste, saluto tutti i miei paesani, non so se è per Trieste o per via Trieste, ma non l'ho capito, poi mi dice saluto tutti i miei paesani, forza Palermo, i paesani cefaludesi, quindi... e poi vi parlerò di cosa succederà stasera all'interno di Rock Revolution. Intanto c'è Robin S. Allora, stasera dicevo, visto che è venerdì, c'è la consueta puntata in diretta di Rock Revolution con Simone e Filippo Brancato. Stasera ospite ci sarà Andy dei Blu Vertigo e non solo, perché poi ci saranno altre formazioni che suoneranno dal vivo, quindi un'altra puntata scoppiettante per quanto riguarda Rock Revolution a partire dalle ore 21. Vi consiglio vivamente di... Che sento davvero, mi arrendo, ogni riferimento è andato via, spariti marciapiedi e le case e colline, sembrava bello ieri ed io sepolto da un suo bianco,

incontrassi adesso, son sicuro che in un lampo ti amerei lo stesso. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che sembra rinata, pur restando immobili presto scivoliamo via infinite distese. Sorvoliamo, colpiscimi, sorprendimi, perché tu sei l'infa nei miei sistemi. Emozione inaspettata, chissà che non mi arrivi domani una bella emozione inaspettata. Dai, domani sapete, no? Domani sera c'è questo match clou tra il Milan e la Juve, si gioca a Milano, vedremo un po' come andrà a finire. Io spererei già in un pareggio, sarebbe la cosa bellissima per pareggiare a Milano. Certo, la vittoria sarebbe un po' l'apoteosi. C'è Wang Chung. Take your baby by the hand and make her do a handstand. And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on when I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. Take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in a rush to sapphire's blue, and you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all day's love. Mentre aspetto che tutto finisca,

Poverino però. Allora, un taiwanese, che è uno di Taiwan naturalmente, che voleva regalarsi una serata alternativa comprandosi un DVD a luci rosse, dice: lo guardo mentre mia moglie è fuori e via. Però se pensava di passare una serata senza pensare alla moglie, le cose sono andate decisamente storte. Io so che già avete immaginato. Infatti, quando ha iniziato a guardare il film a luci rosse, l'uomo ha avuto una sorpresa. La protagonista del film era proprio sua moglie, ripresa mentre faceva sesso con un amico della coppia. Il fatto è avvenuto nel 2002. L'uomo ha chiesto ed ottenuto il divorzio, però la storia strana è che qualche settimana fa l'uomo ha incontrato per strada l'amante, o quantomeno l'amante che era sullo schermo della moglie, e lo ha aggredito con un coltello, ferendolo in modo leggero, però è stato denunziato. Ora rischia 6 mesi di prigione e la sua controdenuncia nei confronti dell'uomo e dell'ex moglie per adulterio è stata respinta, poiché è previsto che una denuncia di questo tipo possa essere presentata solo entro 5 anni dai fatti. Cioè, se l'è tenuto 5 anni, non ho capito. Oh, no, 5 anni, se l'è tenuto 10 anni, perché visto che è successo nel 2002. Però che strano, eh? Accendi, ti metti la bello tranquillo, crei l'atmosfera e ah, mi godo un bel film porno, un bel film a luci rosse, mia moglie non c'è, pacco di patatine vicino, popcorn forse meglio. Accendi e arriva la sorpresina, che la protagonista principale è tua moglie, ma la cosa bella è che sta facendo sesso con un amico tuo, perché è un amico della coppia. Davvero stranissimo. E regala un bel disco di Kate Bush, si chiama Babushka. She wanted to test her husband, she knew exactly what to do. A pseudonym to fool him, she couldn't have made the worst move. She sent him letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letter, oh, babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. Babushka. 18:24, buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio. Ancora una volta ben ritrovati sui 101.4, ancora sul nostro sito internet CRM Happy Radio, che vi dà la possibilità, oltre che sentire la musica, anche di guardarci e di vederci all'opera tramite la nostra web. Si stanno rompendo tutti i bicchieri, mamma mia. Torniamo in Italia, un disco nuovo. Questo è il nuovo capolavoro di Lorenzo Cherubini. Ora. Dico.

Eagles, Video Kill the Radio Star. Questa è stata un po', no, una denuncia che quando è arrivato il video, lo schermo, il televisore, ha un po' ucciso le star della radio. E beh, effettivamente è stato così. A proposito di star, stavo leggendo questa notizia che credo gioca tantissimo a favore di questo splendido personaggio quale Gerry Scotti, che ha fatto una confessione sulla sua pensione da ex parlamentare. Ha dichiarato: avendo versato i contributi avrò diritto a percepire all'età di 65 anni, ossia tra 10 anni, una pensione come ex parlamentare di 2.300 euro al mese. Siccome ritengo di non aver fatto in quel ruolo tutto il mio dovere, ho deciso unilateralmente di devolverlo alle famiglie dei caduti nell'adempimento del proprio dovere delle forze dell'ordine. Veramente una cosa straordinaria, che gli fa onore ad averceli deputati del genere, no? Perché dico, se tutti i deputati che non hanno fatto, non hanno adempito bene al proprio diritto, se avessero deciso di fare il gesto di seguire le orme di Gerry Scotti, chissà in quanti avrebbero dovuto. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te, se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante, poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare. Non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo a niente, perché se perdo in amore perdo te, che accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire, e invece di morire ho imparato a sempre Nina Zilli, questa estroversa Nina Zilli, ha litigato con un po' di persone ultimamente, la sua nuova canzone si chiama semplicemente Per Sempre. Devo salutare Rosario e Fabio che mi chiedono di salutare la nonna Maria, e come non farlo, certo che devo farlo, e nonno Rosario pure, no? E un po' tutte le zie, zii, tutti quanti. 18:39. buona serata. Ormai le penombre sono scese sulla città, no? Sino alle 18 però c'era luce. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Sexy Thing, anche questa è stata colonna sonora di un bel film là dove, adesso non ricordo bene il titolo, mi sfugge, però era quel film dove quegli operai, non avendo più lavoro, si sono inventati di andare a fare gli spogliarellisti. Un film comico che ha fatto ridere davvero tanto. Invece non fa ridere, anzi è bellissima questa canzone di Noemi, si chiama Sono solo parole. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e

adesso il bambino è arrivato, ma non lo so, dovremmo vedere come va a finire questa lieta storia tra questi due coniugi tedeschi. Ma poi dico che nessuno gli ha detto, magari dei parenti, che per fare un figlio bisognava, come dicevano una volta, dormire insieme. Mio nonno diceva mangiare ad uno e dormire a due. Manca poco, poi dovremo salutarci. Allora vi regalo l'ultimo disco di oggi, un disco bellissimo secondo me, che crea la giusta atmosfera anche per i saluti finali. Lui si chiama Chris Rea, questa è Josephine. Arrivati alla conclusione dell'ultimo appuntamento settimanale, oggi che è il venerdì il 24, naturalmente non mi rimane altro da fare che salutare quanti seguiranno le varie repliche durante il weekend, la prima già da stasera a partire da mezzanotte sino alle 2, poi durante il weekend ci sentiremo, sappiate che siete state ascoltando una replica, poi la prossima puntata è in diretta per lunedì prossimo a partire dalle 17. Da Roby Dottore è tutto, buon weekend e alla prossima.